Se tu mi dai da bere, e da mangiare, a furia di stornelli ti puoi incitrullire. La tua figlia la nanda, ragazzi, avete capito le indicazioni di Elisa? Per favore, non ci fate fare brutte figure coi milanesi, che poi quelli vanno in giro e fanno «Uè, bauscia! Uè, questi! Parlano, parlano, dicano niente!» Forza! Andiamo, seri, concentrati, via! Sì, ma che si deve recitare oggi? Che commedia è questa? No, l'ha detto, l'ha detto lei. Ok, no, pensavo di fare la battuta. Fa la battuta, di una scherza. Quella tre volte si è fatto sufficientemente schifo. Vediamo se oggi si fa meglio. Ma a me questa storia c'è milanesi, già bello è fatto. La cotoletta c'è, andiamo, dai, dai. A me milanesi, insomma. Allora, io fo al Gante. Fammi concentrare. Io fo la fonina. Il dottor Purgone. Questo nome non figura nel mio elenco di grandi medici. Dove dice che siate malato? Lui dice al fegato, altri dicono alla milza. Tutti ignoranti, siete ammalato ai polmoni. Ai polmoni? Sì, e che cosa sentite? Sento ogni tanto dei dolori alla testa. Esatto, i polmoni. E qualche volta mi sembra di avere un velo davanti agli occhi. I polmoni, sono polmoni. Di tanto in tanto sento anche delle fitte al cuore. I polmoni. E qualche volta una specie di stanchezza in tutto il corpo. Sono i polmoni. E ogni tanto mi prendono dei dolori al ventre come se avessi una colica. I polmoni, ma mangiate con appetito? Sì, signore. I polmoni, un bel bicchiere di vino lo bevete volentieri? Sì, signore, anche due. Sono i polmoni, e dopo pranzo avvertite un po' di sonnolenza e magari dormite parecchio volentieri? Sì, tutti i giorni dopo pranzo dormo. I polmoni, come dico io, e il vostro medico che cosa vi fa mangiare? Mi fa mangiare impastato di verdura. Che ignorante. Pollame. Ignorante. Vitello. Ignorante proprio. I brodini. Ignorante. Le uova di giornata. Ignorante, ignorante. E soprattutto bere il vino molto allungato. Ignorantus, ignoranta, ignorantium. Il vostro vino dovete berlo puro. E per irrobustire un po' il sangue, che è troppo leggero, dovete mangiare dei bei pezzi di carne dei bue, dei bei pezzi di maiale, del buon formaggio olandese, polenta, riso, castagne e ciambelle, per conglobare e conglutinare il tutto. Il vostro dottore è una bestia, ve ne manderò uno di mia fiducia e di tanto in tanto, finché resterò in questa città, verrò io stesso a vedervi. Ve ne sono molto grato. Che cosa ve ne fate di questo braccio? Come? Questo è un braccio che io, se fossi in voi, mi farei tagliare immediatamente. E perché mai? Non vedete che si prende per sé tutto il nutrimento e ne lascia senza l'altro? Sì, ma a me il braccio serve. E avete anche un occhio destro che io mi farei strappare se fosse al vostro posto. Fammi strappare un occhio. Non vedi che danneggia l'altro e che gli sottrae tutto il nutrimento? Date retta a me, fatevi strappare quell'occhio al più presto e vedrete come vedrete meglio con l'altro. Non c'è fretta, guardi. Aspetta, la leggo questa perché... Vabbè, addio, mi dispiace dovervi lasciare così presto, ma devo recarmi a un grande consulto per un uomo che è morto ieri. Un uomo morto ieri? Sì, per vedere che cosa si sarebbe dovuto fare per guarirlo. A presto. Voi sapete che i malati non riaccompagnano. E ora c'è Beraldo. Chi è Beraldo? Lo fo io, aspetta, lo fate. Lo fa la voce così. Poi dopo Beraldo che c'è? C'è Beraldo, Argante, Beraldo, io non ci so più, sono uscito. Okay. Allora dammi il fuoco. Questo è un medico che mi sembra senz'altro molto bravo. Sì, però secondo me va un po' di fretta, eh? Tutti i grandi medici sono così. Ma dai, tagliarmi un braccio, strapparmi un occhio, perché l'altro stia meglio. Preferisco che stia un po' meno bene, bella operazione, ridurmi orbo e monco. Bravi ragazzi, bravi, avete fatto più schifo del solito, bravi asini. Ma sarà perché ti è toccato Faberardo, a te forse si è fatto schifo. No, ma poi io, guarda, a me questa cosa di recitare alla radio, ok, ma recitare si recita il cinematografo. Ormai ci siamo impegnati, quindi pedalare e al prossimo dialogo.